GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Si stanno sedendo a tavola proprio ora gli ospiti del pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio a Trieste, 350 persone in situazione di marginalità e solitudine, una condizione che nel 2024 ha riguardato più persone rispetto agli anni precedenti. E gli ultimi, soprattutto chi vive in territorio di guerra, sono stati ricordati dal nuovo vescovo di Udine nella sua prima omelia di Natale in città. Un pensiero in particolare al popolo ucraino, tanti rifugiati anche a Udine. A due settimane dall'incendio che ha portato via tutto, le famiglie sfollate della Caseater di Cervignano celebrano il Natale con una grande incertezza per il proprio futuro. Il vento che ha bloccato ieri gli impianti di Sappada si è calmato e dopo una notte di super lavoro per tecnici e operai, funivie e piste aperte a Sappada e nel 90% delle montagne friulane. Domani è atteso il boom di sciatori, bene, ma attenzione a non farsi male, è il monito di Promoturismo FVG. Buongiorno e buon Natale dalla testata giornalistica regionale della RAI, ai microfoni Lara Zani e Anna Vitaliani. Anziani soli, famiglie che vivono in condizioni di marginalità ma anche senza tetto, rifugiati e profughi ucraini, sono 350 circa gli ospiti del pranzo di Natale che in questi minuti sta per cominciare al centro congressi di Porto Vecchio. Un momento di convivialità e serenità offerto dalla comunità di Sant'Egidio che quest'anno ha visto crescere la richiesta di aiuto da parte di persone in forte sofferenza economica. I tavoli si sono quasi tutti riempiti al centro congressi del Porto Vecchio. Gli ospiti arrivano vestiti a festa e mostrano il sorriso di chi è contento di passare la giornata in compagnia. Ci sono gli anziani soli, senza tetto, le famiglie che il sabato mattina si rivolgono al centro di solidarietà della comunità di Sant'Egidio in via di Romagna, i profughi ucraini e i rifugiati della rotta balcanica. 350 persone, in aumento rispetto agli scorsi anni, così come sono in aumento le famiglie che durante l'anno hanno chiesto per la prima volta un aiuto per comprare cibo. Sono state 1.145 in più rispetto al 2023. A incidere l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e il lavoro povero, che hanno messo anche molti triestini nelle condizioni di non potersi assicurare pasti regolari ed equilibrati. Attivi e sempre in movimento, anche oggi, i volontari della comunità di Sant'Egidio sono circa 80 a servire ai tavoli e a impacchettare i regali che dopo il pranzo saranno consegnati agli ospiti, preparati grazie alle donazioni di tanti cittadini. I volontari arrivano anche da fuori regione e tra loro ci sono molti ragazzi. Tra circa mezz'ora cominceranno a servire il primo, a scelta tra le lasagne e il couscous di verdure, pensato per i musulmani. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. L'attacco russo al popolo ucraino nel giorno di Natale e in generale la sofferenza delle persone che vivono nei tanti territori di conflitto al centro dei pensieri del nuovo arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba, che dopo aver celebrato la messa questa mattina nella casa circondariale assieme ai detenuti, ha fatto la sua prima omelia di Natale a Udine in cattedrale. Una bella giornata di sole ha accolto i fedeli al Duomo di Udine per la messa mattutina di Natale. All'ingresso il presepe di legno col bambinello. Una prima volta questo Natale a Udine per l'arcivescovo Riccardo Lamba, che ha celebrato la funzione accompagnato dalla cappella musicale della cattedrale. Nella sua omelia Lamba ha fornito la propria interpretazione della lettura del giorno. Al nostro microfono ha ricordato l'importanza dell'apertura dell'anno del Giubileo e la necessità di pregare per la pace in un'epoca di conflitti. La guerra russa in Ucraina non si è fermata, nemmeno la notte di Natale del resto. Massiccio l'attacco aereo che ha lasciato milioni di persone al freddo e al buio. Un pensiero a loro hanno rivolto le ucraine e gli ucraini di Udine, riuniti in varie cerimonie nella chiesa ortodossa di Via Pozzuolo, una comunità, quella ucraina già radicata in Friuli, che si è ingrossata con l'arrivo dei profughi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Un pensiero rivolto ai lavoratori della Flex e di tutte le aziende in crisi, quello espresso nella sua omelia dal vescovo di Trieste, Monsignore Enrico Trevisi, in una cattedrale di San Giusto gremita di fedeli questa mattina per la messa di Natale. Un ricordo particolare per i lavoratori che rischiano il posto e che sono nella precarietà, come quelli della Tirso, della Flex, della Varzila, per i giovani che lasciano la nostra terra per cercare lavoro più degno in altri paesi e per chi qui celebra il Natale e le feste perché anche lui costretto ad allontanarsi dalla sua casa. Sono questi i pensieri rivolti dal Vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, nella sua omelia durante la Santa Messa di Natale, celebrata davanti a una comunità non numerosissima ma molto partecipe nella Cattedrale di San Giusto. Nell'appena inaugurato anno giubilare, l'augurio del presule in un mondo che troppe volte preferisce le tenebre, come dimostrano anche i conflitti che lo insanguinano, è di essere capaci di accogliere la luce che è Cristo, di essere gioiosi e messaggeri di amore e pace nei confronti di chi incontriamo sulla nostra strada. L'esortazione è dunque a rivalutare i gesti piccoli, ma rendendoli veri, spargere abbondanti sorrisi, salutare con affetto vicini e colleghi, perdonare, essere generosi con i più poveri, ricordarsi di chi non può essere presente alla festa, perché non l'aggressività, ma la gentilezza e l'umiltà sono la chiave per cambiare il mondo. Gesù è la porta della speranza e io auguro a tutti di essere quel segno di un Dio che è in mezzo a noi e dunque di una speranza che è accessibile a tutti. Certo, non perché l'annunciamo solo a parole, ma perché la nostra vita diventa significativa e siamo gli uni per gli altri, soprattutto per chi è più vulnerabile e fragile, per chi vive esperienze faticose, il segno di un Dio vicino, di un Dio che è con noi. Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Che questo Natale sia per tutti noi la risposta vera ai nostri perché, una risposta che ci impegna nella nostra libertà ma ci riempie di gioia e di pace. Questo l'augurio che l'arcivescovo di Gorizia Carlo Maria Redaelli ha voluto formulare nella messa celebrata questa mattina nella chiesa di Sant'Ignazio. La sua omelia ha preso le mosse proprio dalla necessità di porsi le domande essenziali senza avere paura che restino senza risposta. Il Natale, ha detto Carlo Maria Redaelli, non è solo una bella festa da vivere in famiglia, un momento di sosta nella nostra vita frenetica, uno scambio di auguri e di doni. Il Natale, ha detto, va al principio, non ci imbroglia, non lascia senza risposta i nostri perché più impegnativi. Ha parlato invece di speranza e ha fatto riferimento all'apertura della Porta Santa il vescovo di Concordia Pordenone Giuseppe Pellegrini. Il Natale, ha detto, è il tempo della nostra rinascita perché possiamo aprirci alla speranza. Papa Francesco ha appena aperto la Porta Santa della Basilica di San Pietro per dare inizio all'anno santo, il Giubileo 2025, che ha voluto dedicare al tema della speranza. Speranza che non delude, come recita il titolo della bolla di indizione Spes non confundit. Speranza necessaria in un'epoca del mondo che tra guerre, divisioni, povertà, crisi climatiche sembra prospettare solo angoscia e afflizione. Un'occasione di riflessione e raccoglimento perché l'anno giubilare possa essere un tempo di spiritualità, rinascita, perdono e liberazione sociale. Non smettiamo di scorgere la vita che nasce in noi, ha concluso, nelle nostre comunità, nella Chiesa e nel mondo intero. E ora la cronaca con diversi sinistri sulle strade. Attorno alle 11.30 di questa mattina un incidente si è verificato a Gorizia, in località Vallone dell'Acqua. Un'auto è uscita di strada autonomamente, il conducente, unica persona a bordo del veicolo, è stato sbalzato fuori dal finestrino. Soccorso, è stato elitrasportato in ospedale, sul posto anche i vigili del fuoco di Gorizia. E un ciclista è stato ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale di Udine in seguito a un incidente. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato investito intorno alle 19.30 di ieri, mentre percorreva via Lumignacco nel capoluogo. Soccorso dai sanitari, è stato accolto in ospedale in codice rosso. Ed è stata divulgata oggi la notizia di un incidente mortale avvenuto intorno alle 17.30 di lunedì 23 dicembre lungo il viadotto della Statale 13 in località Rio degli Uccelli. In uno schianto frontale contro un'altra auto ha perso la vita Bruno Buzzi, 63 anni, di Pontebba. E ancora cronaca con un incendio poco prima della mezzanotte di ieri in un garage all'interno di una proprietà privata in via Montebello a Trieste. Una squadra dei vigili del fuoco e il funzionario di guardia sono intervenuti alle 23.30 in seguito alla segnalazione di fumo all'interno del locale che, utilizzato come deposito, conteneva notevole materiale il quale, bruciando, ha reso complesse le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco sono comunque riusciti a evitare che il rogo, le cui cause devono essere accertate, si allargasse alle proprietà confinanti. Sul posto anche i proprietari, avvertiti dai vicini di quanto stava accadendo. Senza casa e con un futuro tutto da ricostruire, un Natale decisamente amaro per le 24 famiglie di Cervignano che risiedevano nella palazzina Ater andata a fuoco 2 settimane fa. Siamo andati a vedere come stanno queste persone in una giornata come questa, in cui ci si auspica per tutti un Natale di gioia e serenità. Non è sicuramente un Natale facile per le 24 famiglie di Cervignano rimaste senza casa dopo l'incendio della palazzina Ater di via Brumatti 2 settimane fa. L'azienda territoriale per l'edilizia residenziale è riuscita a trovare 16 alloggi, quasi tutti in paese. 13 nuclei familiari hanno accettato e già firmato un contratto. Per le rimanenti famiglie sono state individuate case appena lasciate dai precedenti inquilini. Una breve manutenzione e saranno pronte a febbraio 2025. I nuovi appartamenti vengono consegnati come di prassi, vuoti e con le utenze da allacciare. Complici weekend e le feste, è molto difficile che qualcuno sia già riuscito a traslocare, anche perché i mobili ancora utilizzabili, dopo fuoco e fumo, sono ancora in via Brumatti, lo stabile è inagibile e si entra solo accompagnati da personale ATER. Andrea Balducci, sindaco di Cervignano. Con ATER, tramite l'utilizzo di piattaforma aerea, di un servizio di trasloco che attiveremo ad hoc, metteremo le famiglie nella condizione di recuperare l'arredamento ancora in buono stato. Difficile che le 62 persone coinvolte dall'incendio possano fare ritorno nel condominio. La stima è di almeno 2 anni e mezzo di lavori per 1.600.000 euro. Sono ancora tutti da amici, parenti e in 2 alberghi del paese. Ieri firmato dalla Protezione Civile il decreto per i primi ristori al comune di Cervignano, 60.000 euro. Alcuni sfollati parteciperanno tra poco a un pranzo in parrocchia offerto dal comune. Chi ha la fortuna di non aver messo l'auto nel garage andato a fuoco, in questi giorni si è potuto recare al lavoro, come Stefano Minnei, uno degli ex inquilini. È un Natale sicuramente atipico, un Natale difficile. Per noi è giunto un attimino il momento di chiudersi in famiglia, di rivivere un po' di normalità, e sicuramente sarà un momento molto intimo, questo di sicuro, no? Ci sono bambini, persone anche con difficoltà, diversamente abili, che hanno bisogno di mantenere una parvenza di normalità, no? Per cui oggi è una giornata sicuramente piena di significato. Cervignano, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Doveva essere un Natale in Antartide, quello dei ricercatori dell'OGS partiti a bordo della nave Laura Bassi, che però a causa di un'avaria è ora ferma in Nuova Zelanda. L'equipaggio però non si perde d'animo, anzi sta celebrando il Natale con il cuore a Trieste. Natale con i tuoi, dice il proverbio, ma ci sono deroghe per chi per lavoro deve andare in capo al mondo, come il ricercatore della nave oceanografica Laura Bassi, partita a metà ottobre per la 40ª spedizione antartica italiana, promossa dal PNRA e attuata dall'OGS di Trieste. Porteranno a termine 6 progetti di carattere sia logistico sia scientifico. Ora, a causa di una avaria al motore, sono tornati in Nuova Zelanda per le riparazioni e nell'attesa hanno passato insieme il Natale. Roberto Romeo, capo missione Laura Bassi. Siamo una piccola famiglia e quindi abbiamo celebrato ieri sera la vigilia con un cenone, scambiandoci i regali, e oggi invece abbiamo fatto il pranzo tutti quanti assieme, terminandolo con una fetta di Presnitz triestino. Un legame profondo che supera i 18.000 km di distanza. Noi portiamo sempre con noi la bandiera di Trieste, che è fissata qua sul pennone, e il cuore è sempre legato a Trieste. È la nostra regione. Per le missioni scientifiche studieranno le variazioni dell'oceano causate dal cambiamento climatico. A livello logistico porteranno rifornimenti alla stazione italiana Mario Zucchelli in Antartide. Ad aspettarle ci sarà anche Claudio Devinar, vigile del fuoco friulano, che si occupa della sicurezza della base. Anche per lui un Natale lontano da casa, ma il menù non era male. Pesce a volontà, hanno fatto scampi, hanno fatto pesce spada, tonno. Poi hanno fatto la parmigiana, hanno fatto i tortellini. No, si è mangiato un pranzo da ristorante completo proprio. Natale è uno dei pochi giorni in cui la base non si lavora. Finito il pasto si può uscire a fare una passeggiata. Lì è estate e le temperature oscillano intorno allo 0. Se non c'è vento basta una felpa e con un po' di fortuna si possono fare anche incontri interessanti. I pinguini vengono fino in base. Ogni tanto la mattina quando usciamo li troviamo che passeggiano nel cortile della base, e sono simpaticissimi, sono curiosi. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella notte della vigilia, personale del comando dei vigili del fuoco di Pordenone ha partecipato alla tradizionale fiaccolata della messa di Natale nella sorgente del Gorgazzo a Polcenigo, organizzata dal centro pordenonese sommozzatori ASD APS. SUB e personale fluviale si sono immersi con delle fiaccole nelle fredde acque della sorgente, rendendo omaggio alla Natività, deponendo successivamente una corona votiva sulla statua del Cristo a 9 metri di profondità. Diamo ora uno sguardo al meteo, sono le 12.45, cielo da poco nuvoloso a sereno sulla nostra regione, queste le temperature registrate alle ore 11, a Trieste 9,5 gradi, a Gorizia 10 gradi, a Udine 8, a Pordenone 6,5 gradi. Sulle montagne Piancavallo 5,5 gradi, Tolmezzo 2,5 gradi, Forni di Sopra 3,5 gradi, Tarvisio -2,5 gradi, Sappada -5, Monte Zoncolan -1 grado, Monte Lussari -2 gradi. Tornando sulla costa a Grado ci sono 10,5 gradi e a Lignano 7,5 gradi. E vediamo adesso le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza sereno sul Carso e a Trieste soffierà bora in prevalenza moderata, ma con possibili raffiche sostenute. E allora andiamo in montagna. Si annunciano giornate fredde ma di sole favoloso sulle nostre montagne. I 6 comprensori sciistici della regione presentano di fatto il 90% delle piste aperte. A Sappada ieri, a causa del forte vento, 2 impianti sono stati chiusi in extremis, ma grazie al lavoro intenso dei tecnici e degli operai di questa notte, da stamane piste aperte e impianti tutti aperti, come ci racconta Jacopo Mestroni, direttore generale di Promoturismo FVG, che abbiamo raggiunto al telefono. A Sappada è stata ripristinata l'utenza sia degli impianti, sia quella elettrica che era stata danneggiata, e anche delle piste, per cui da oggi si ritorna a sciare su tutto il demanio disponibile. Per il resto della regione, che percentuale di piste è aperta? Siamo quasi al 90%, devo dire che siamo molto soddisfatti dei numeri sia dello scorso weekend sia di questi primi giorni che ci hanno portati a Natale. Le previsioni degli albergatori sono molto buone perché c'è il tutto esaurito su tutti quanti i poli, per cui prevediamo un afflusso importante di gente da qui fino all'Epifania. Il 26 di dicembre è la giornata clou per andare sulla neve. Sì, storicamente è il giorno in cui a parità di condizioni meteo c'è sicuramente il maggior afflusso, parliamo di oltre 20.000 sciatori sui nostri 6 poli, per cui io mi sento di chiedere, come dire, una particolare prudenza e un utilizzo cautelare, insomma, degli sci, degli snowboard, tutte quelle attività che si fanno sulla neve, appunto per evitare rischi, per evitare collisioni, per evitare incidenti che sarebbero proprio fuori luogo. Pronto soccorso in allerta. Sì, perché purtroppo accade abbastanza spesso che ci siano delle collisioni e quindi i pronto soccorso in questo periodo sono particolarmente affollati appunto per traumi sulle piste da sci. Ribadisco, noi auspichiamo sempre un utilizzo corretto e sicuro di tutti i materiali. La tradizione religiosa del Natale in Friuli Venezia Giulia si esprime attraverso i presepi visitabili in questi giorni. A Lignano il presepe non può che essere di sabbia, a Ravascleto sono esposti i presepi realizzati dai discendenti dei Cramars, i venditori ambulanti della carne attivi dal XVI al XIX secolo. A Sutrio il celebre presepe di Teno riproduce in miniatura gli usi e i costumi del paese, con scene che si animano grazie a ingranaggi meccanici. Quello di Selsa, Ronchi dei Legionari, è in movimento con oltre 300 figure animate da un solo motore. Nell'antico borgo medievale di Polcenigo si segnalano le decorazioni fatte da intrecci di midollino. A Grado, infine, Gesù nasce nella laguna. Al posto delle capanne ci sono i casoni e invece dei pastorelli i pescatori. Due appuntamenti natalizi vi segnaliamo a Trieste. Questo pomeriggio alle ore 18 sarà in programma nella chiesa di San Bartolomeo Piccina il tradizionale concerto di Natale delle corali locali, quest'anno con un programma tematico in memoria di 3 compositori triestini, Mercou, Vodo Pivez e Malik. E poi nel giorno sempre di Natale a Sutrio, oggi tradizionale concerto natalizio a cura del corpo bandistico Aristide Selenati, dalle 20.30 nella palestra comunale. Dunque il GR termina qui, l'assistenza tecnica è stata curata da Riccardo Stoice, Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 14, saremo in diretta dal pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio con 350 ospiti, lo abbiamo raccontato poco fa. Potete seguire gli aggiornamenti sui nostri profili Twitter, Facebook, Telegram, sulla nostra pagina web. Grazie a tutti per per la cortese attenzione, dalla Razzani e da Anna Vitaliani in studio, di nuovo l'augurio di un sereno e felice Natale a tutti. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.